140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag #cancelletto140caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Parole dintorni, ufficio stampa, Milano. Si chiama Fuoco e Fiamme ed è il nuovo album dei Finley. Per i ragazzi lanciati da Cecchetto, la prima avventura totalmente autoprodotta. Tra fuoco e fiamme impazzi. Fondamentalmente siamo un gruppo passionale, travolgente, rovente, e a parte le stronzate, questo disco è un disco prima di tutto che ha della passione, ha nel fuoco il suo elemento principale, Fuoco e Fiamme, perché siamo una band che suona insieme ormai da 10 anni, unita da un profondo legame di amicizia. Fuoco e Fiamme perché appunto il fuoco è l'elemento che attraversa tutte le 13 canzoni. Ci sono canzoni che appunto manifestano chiaramente appunto la presenza dell'elemento nel titolo, ma altre che magari al loro interno non spiegano, non parlano di fuoco, ma che al loro interno appunto nascondono qualcosa di veramente forte e potente. Fuoco e Fiamme poi perché è un disco rock energico, e ci piace definirlo il nostro nuovo primo disco, perché è un po' come, cioè, l'uscita di questo album ci sta emozionando, nel senso che sembra un po' come quando abbiamo lanciato il nostro primo disco, ovvero Tutto è Possibile, perché con l'uscita appunto e la pubblicazione di questo disco si apre un nuovo capitolo per noi, che è quello della indipendenza. Siamo fuoco che brucia, siamo roba che scotta, siamo lampi nel cielo in questa vita lacca. Scoperti dal più grande talent scout italiano, possiamo dire Claudio Cecchetto, la via della major, e ora invece provate un cammino nuovo. Abbiamo deciso e voluto fortemente questo cambiamento. Sono stati 6 anni dal lancio di Tutto è Possibile, che abbiamo vissuto intensamente e alla velocità della luce con Claudio Cecchetto e appunto Amy. Ma ora come ora sentivamo il bisogno di entrare in ogni angolo e aspetto di quello che comunque concerne la produzione del nostro disco e del nostro progetto. Avevamo questa necessità, abbiamo aperto la Gruppo Randa, che è la nostra etichetta che appunto distribuisce e produce questo album, perché comunque lì dentro c'è la nostra vita, c'è il nostro cuore, c'è il nostro lavoro, quindi nessuno può mettere le mani su quella roba lì, e la vogliamo gestire noi. Il live è una dimensione molto importante, che però appartiene ai gruppi veri, che hanno una storia vera, che hanno una gavetta, in un mondo in cui invece la discografia sempre più si affida agli interpreti pur bravissimi usciti dai talent show. Ora del live nessuno può più fare a meno, perché effettivamente non essendoci un indotto così importante a livello proprio derivante dai dischi, chiunque, anche chi magari non aveva una dimensione prettamente live, deve fare di necessità virtù e deve spostare anche i suoi interessi in quello. Noi nasciamo come band che suonava nei locali della provincia, perché siamo veramente una garage band che dal 2002 suona insieme. Siamo nati come band tra i banchi di scuola e abbiamo portato avanti questo concetto di band che suona insieme, che prova, che costruisce, che scrive i pezzi, da quando abbiamo 15 anni. Potrei parlarne veramente ore sul discorso magari reality, sul fatto che comunque c'è una propensione magari troppo conservatrice nella musica italiana, si va sempre verso il cantante, si predilige magari una musica più classica. Quello di porsi poi verso una canzone magari già troppo sdolcinata, troppo che parla di altre cose, quando i ragazzi dovrebbero parlare dei loro problemi. Più che altro non dico anacronistico, ma non lo ritengo, cioè, così vero come discorso. Gli occhi di un bambino che sognava di poter volare restano. Fidati di me, il meglio arriverà. Lo cielo andremo a prendere. Per quanto giusto sia, questa è casa mia. Arriverà, il meglio arriverà. In un mondo così pop, voi avete tirato fuori un album invece molto rock. Vogliamo essere un progetto vero. Innanzitutto un progetto sincero, e sono quelle canzoni, sono dei nostri piccoli pezzi di vita, cioè sono dei racconti nostri, sono delle esperienze vissute sulla pelle, anche perché non siamo proprio abituati a parlare di cose che non conosciamo o che non abbiamo vissuto. Ricollegandomi a quello che diceva Pedro su magari altri progetti che si affidano magari ad autori e tutto quanto, c'è una scelta, la nostra è una scelta di sincerità, di voler portare un prodotto anche dal punto di vista live vero, e questo disco è stato costruito in base a quello che noi siamo sul palco. Abbiamo della gente davanti e che comunque segue il nostro progetto che ci piace definire impazzita, nel senso che è gente che fa di tutto pur di essere a un nostro concerto, fa chilometri, investe del denaro, che sembra stupido da dire o sembra veniale, ma è gente che spende tanti soldi per noi e noi dobbiamo ripagarli con anche l'ultima goccia di sudore. Ovviamente il meglio arriverà con Edoardo Bennato, però voglio sapere qualcosa su Olympia, The Sound of My Nation, che insomma è un brano un po' particolare. Edoardo lo conosciamo già da qualche anno, abbiamo avuto modo di aprire un suo concerto nel 2008, eravamo a Valle della Lucania, ci siamo incontrati quasi per caso e 2 ore prima in camerino abbiamo detto suoniamo un pezzo assieme e abbiamo improvvisato che i ragazzi fanno grandi sogni. Successivamente ci ha richiamato per MTV Storytellers circa un anno e mezzo fa, dove abbiamo interpretato un brano del suo primo disco che era Rinnegato, e poi ci ha fatto un regalo, diciamo così, non vogliamo considerarlo un duetto, lui è diventato un amico, anche se devo dirla tutta, ha influenzato un pochino il nostro cambiamento, diciamo, dandoci un po' di spunti blues, a partire dagli accordi di chitarra, come dall'inserimento dell'armonica in alcuni brani, i brani folk e blues che si sentono nel disco. Diciamo che lo consideriamo un po' il nostro insegnante di musica negli ultimi 2-3 anni, se vogliamo dirla così, e ci ha fatto questo grande omaggio, noi siamo contenti, speriamo che possano apprezzarlo anche le persone che lo ascolteranno, insomma. E Olympia invece è un pezzo che è nato visto che quest'anno c'è una grande manifestazione che sono le Olimpiadi. Noi da grandi spettatori di sport siamo più ferrati sullo sport che sulla musica, potremmo tenere comizi infiniti. Abbiamo voluto celebrare questo attimo, abbiamo un forte senso di appartenenza alla nostra nazione, al nostro paese, e siamo sempre orgogliosi dei nostri sportivi. Siamo gente che si emoziona, che accende la televisione, che si emoziona a vedere dei traguardi raggiunti da un ragazzo italiano, magari anche più giovane di noi, perché adesso, come dicevamo prima, noi abbiamo 26 anni ma cominciamo a essere anziani per certe cose. E niente, Olimpia secondo noi è un pezzo che può aiutare anche questi nostri atleti in questo cammino che sarà importante. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Parliamo di musica e TV. Sky Italia, Milano. talent show sì o no? 3 sì per i finalisti di X Factor, Francesca, Antonella, i Moderni, protagonisti domani dello speciale Sky X Factor Evolution. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male. Ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu. Tu sei troppo distratto. Francesca, primo album, prima liceo classico. Come fai a fare tutto? Non lo so nemmeno io. Cioè, di sicuro è difficile, porta tanta stanchezza fisica e mentale, però a me piacciono un sacco entrambe e due le cose. Poi adesso che ho addirittura questa opportunità musicale, penso che io non possa trascurarla, però anche lo studio è importante, quindi cerco di fare tutte e due le cose. Io ti ho visto emozionata e un po' imbarazzata a rivederti sugli schermi, sì. Che cosa provi? A me fa molto imbarazzo sentire il mio accento e il mio timbro mentre parlo, è una cosa molto difficile per me vedere che parlo così. Sì, è sempre stato per me un trauma rivedermi, però devo riuscire a superarlo. Cioè, rivedermi cantare ce la faccio, è già secondo me è un bel risultato. Adesso devo anche riuscire a apprezzare la mia timbrica mentre parlo. E quando pensi a quelli che adesso hanno fatto i casting o che stanno facendo adesso i casting, che cosa ti fa venire in mente? Che cosa provi? A me viene una nostalgia, un gruppo al cuore incredibile, pensare a come è stato il mio pre-casting e i miei casting. Cavoli, vorrei rifarli, quasi quasi mi iscrivo. Sì. Ti verrà un po' di invidia vedere gli altri sul palco di X Factor quest'anno? Sì, penso non riuscirò a vedere X Factor. Se la regga la Il percorso dopo X Factor è stato molto positivo e molto costruttivo per tutti e tre, e a prescindere da quella che è stata la classifica che prevedeva il gioco. E tutti noi abbiamo collaborato, Franceschina con Elisa, i ragazzi con i Two Fingers, anch'io collaborerò per il nuovo album con dei grandi nomi che adesso non potrò dire, ma sono molto contenta di lavorare con loro. E ho due team che parteciperanno alla produzione, quindi dei nuovi brani, e quindi sì, più che tirare le somme è rendersi fieri di quello che si sta facendo. Finalmente questo è il nostro lavoro e quindi è una bellissima cosa, ecco. Com'è preparare un album? Perché per te era un lavoro anche prima, quindi insomma c'era già una storia di Antonella prima di X Factor. Sì, prima di X Factor avevo lavorato a un album autoprodotto nel 2009 intitolato Nuda, che conteneva 9 canzoni, quindi una sorta di lavoro l'avevo già fatto, ma adesso è tutto molto diverso, nel senso la scrittura dei brani avviene sempre, io faccio in forma privata, quindi magari quando sono da solo con il mio gruppo in sala prove, però il lavoro in studio e lavorare con persone che fanno questo mestiere da tanti anni, che ti possono indirizzare, che ti danno il suono giusto e ti insegnano delle cose. E io sto cercando di imparare da ogni esperienza che sto vivendo dopo X Factor. Non posso non chiederti qualcosa della tua regione, perché sono giorni molto difficili ed è una situazione che tu senti molto. Guarda, io l'ho vissuta in prima persona proprio perché da poco vivo a Modena. Ci sono tanti sfollati, io ho avuto la fortuna di potermi spostare, ma ti giuro che vivo con l'angoscia nonostante mi sia spostata nel Reggiano, quindi dove abitavo prima, un po' più lontano, perché ho vissuto la situazione, l'ho vista con i miei occhi. Sarebbe bello che la musica adesso si muovesse. Sarebbe bello, e credo che, come ha anticipato Minci di Sony, può essere una cosa che si può concretizzare. Ovviamente noi tre, ne parlavamo anche prima, saremmo disposti, io assolutamente sì, e, visto che sono anche della zona, e quello che posso dire è invitare a contribuire con un SMS, c'è un numero, il 45500, con 2 euro almeno aiutiamo gli sfollati e chi ha perso casa. Lei vuole spiagge da sogno, io invece non ne ho bisogno. Luglio col bene che ti voglio, mi svuoti il portafoglio. Voglio girare il mondo, tu dimmi come fai. Lavori tanto e non te la godi mai. Tu collezioni soldi, io colleziono sogni. Tanti soldi li rifai. L'estate si balla, balla, balla, balla. Moderni sicuramente il gruppo più atletico uscito da X Factor, perché adesso cosa fate? Partecipate alle Olimpiadi? Certo, col lancio sul materasso. Il salto del gradino. No. Il salto del mottarello. Esatto. La nostra L'estate si balla, che è il nuovo singolo, è stato preso come colonna sonora, diciamo, del Social Games, che è un programma che parla delle Olimpiadi, dei gossip, degli atleti. Delle storie, sì. In più abbiamo fatto molti jingle diversi, nel senso in cui abbiamo, che la base è sempre quella, però con delle piccole modifiche di testo, per le Olimpiadi in generale, quindi alla moderna, tutti, esatto, alla moderna, per gli sport olimpici. È veramente, effettivamente è una cosa che personalmente abbiamo sempre visto da fuori, no? Abbiamo sempre seguito dalla TV. E poi però in particolare nel 2006 abbiamo partecipato, ed eravamo nessuno, ma alla, non che adesso siamo qualcuno, cioè, alla, ma insomma non importa, ma alle Olimpiadi del 2006, dalla cerimonia di apertura, e quelle invernali a Torino, che fu una cosa proprio super emozionante e bellissima. Quindi poi col senno di poi, pensando a questo arco, no? Che nel tempo, una cosa completamente inaspettata per noi, ma che ci fa cioè, super piacere. Aspetta. Quindi a proposito di sport, i calci nelle terga di Elio hanno davvero portato bene, sortito loro effetto. Hanno portato sul podio. Siamo arrivati sul podio a calci nelle terga. Esatto. Comunque sia, ci siamo arrivati. Sì. Però voglio dire che questa cosa qua era un complotto che abbiamo fatto assieme. Cioè, nel senso, cioè, non è che ci siamo fatti prendere a calci così. Esatto, gente a casa ci ha creduto davvero, ma veramente ti ha preso a calci? Ma non è vero, non è vero. Era studiato. L'abbiamo studiato molto bene, eravamo... Credibili, sì, come direbbe. Comunque sicuramente lui ci ha aiutato tantissimo a tirare fuori una parte, diciamo, quella, una parte un po' stupidera, come la chiama Cattelan, di noi, che è una parte in cui noi ci troviamo benissimo, molto meglio che a fingere o di portare vestiti seriosi non nostri da... come dire, professionali, no? Pettinati. L'ultima domanda è quella difficile, e adesso... Si balla. E adesso si balla con la musica. Adesso i progetti sono tanti, nel senso che abbiamo un sacco di aspettative, abbiamo tanta voglia di fare, come sempre fondamentalmente. Però ora speriamo che questo nuovo CD apra porte di tour, barra date, barra qualsiasi cosa arrivi. Il lavoro non ci spaventa. Ci stiamo allenando. Che la gente compri il CD e dica: sentiamo cosa hanno fatto i moderni. E poi ti dicono: sì, ma devi andare a vedere in concerto per vedere cosa fanno. Anche questa è la cosa principale. Assolutamente no, è veramente fondamentale questa parte della nostra performance, perché i pezzi cambiano proprio vita, anche anima. Cioè. Sì. Ci ho detto Venditti. Avevate ragione. Esatto. Dopo la sua esibizione X Factor, venne dietro e ci disse: avevate ragione, i pezzi, le canzoni vanno anche viste. E se n'è andato. E se n'è andato. Stipa, così. Stiparaventi. Ah, voce di paraventi. Sì. Ma questo. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il mio Twitter, @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.